un'opzione. Ah no, non è un'opzione. Va bene. Ciao a tutti, benvenuti in questo episodio del mio salotto in cui io non parlerò, forse. Però comincio parlando. Allora, stasera mi hanno costretto a fare questa puntata su Spider-Man, lontano da casa, molto lontano da casa, parecchio lontano da casa. Non lo so, è un film che non ho visto, ma qua con me ci sono Jacopo. Ciao. Che l'ha visto, credo. E Cristiano. Sì. Ciao. Eccola là. Che l'ha visto anche lui. E io, vabbè, faccio la solita introduzione, mi hanno chiesto di farla, però lo faccio con un foglio sotto, come al solito, perché non ho idea di che film sia. Allora, è un film che è uscito adesso, immagino, visto che vedo tutti i post schifosi. È il seguito di Spider-Man Homecoming, per citare Marco, e anche il seguito di Avengers Endgame, penso. Sì, Quindi è ambientato dopo Avengers Endgame, quindi non so se ci sarà spoiler o non spoiler, non mi interessa. I protagonisti sono i soliti personaggi, c'è Tom Holland che interpreta Peter Parker, Spider-Man, Samuel Jackson che interpreta il solito Fury, e non so gli altri chi cavolo siano, e i soliti amici di Tom Holland. Il regista è John Watts, non so come cazzo si pronuncia, che è lo stesso regista che ha fatto il primo. Ah, perfetto. Che altro dire? Niente, mi aspetto che il film sia brutto. Ho letto un po' in giro e... No, in realtà ho letto un po' in giro e le recensioni sono molto contrastanti, nel senso che gli appassionati Marvel che ho visto dicono che soprattutto la prima parte è una martellata nei coglioni, la seconda parte non dice niente di più rispetto al normale Spider-Man, e comunque Raimi rimane imbattuto. La critica dice che è un bel film, ma tanto la critica non capisce un cazzo perché vede un film Marvel e dice: ah, oh, è un bel film, però è un film Marvel, quindi non può essere un bel film. Sì, infatti ci sono dei gruppi che a te non te ne frega un cazzo della loro opinione, fondamentalmente. No, allora, quello che dicono è che il secondo di Raimi continua a essere il miglior sequel su Spider-Man. Forse sì. Quello in generale. E basta, io vi lascio blaterare delle vostre cose, spero di non lagare molto, purtroppo ho cambiato casa, sono tornato a Copenaghen, però questa è la terza? Questa è la terza, sì, e ci sarà una quarta finese. Pronti? Come si dice Spider-Man in danese? Si dice Spider-Man. via! Senti, allora, rimani comunque in chiamata, così se hai qualche osservazione. Registro io. Esatto, fai tu il salotto. Infatti non sto registrando. Che dire? Non so, cioè, diciamo, per fare un commento senza spoiler, sono più d'accordo con la critica qui. Cioè, a me è piaciuto molto, supera il primo in quasi ogni parte, diciamo. In quasi ogni momento, però sì, cioè, per me forse Spider-Man 2 di Raimi rimane ancora il miglior Spider-Man, io sono un po' di parte così, però, cioè, considerando che Spider-Man è uno dei miei, diciamo, supereroi preferiti, lo approccio anche con occhio un po' più sia critico, sia magari più pronto a perdonare alcune cazzate. Però vabbè, scusami, considerate che gli spoiler li potete fare, basta dirlo, cioè a me non cambia nulla. Magari, vabbè, facciamo così. Mo' intanto facciamo un commento senza spoiler. Poi alla fine, se c'è qualcosa che dobbiamo per forza dire, e io personalmente ce l'ho, diciamo di smettere di ascoltare. Sì. E facciamo. Comunque, per par condicio, direi di citare anche The Amazing Spider-Man 2. Che, diciamo, tra i sequel si classifica comunque terzo. è comunque un podio tra i sequel di Spider-Man. Che schifo indicibile. Comunque sì, no, questo, beh, il mio commento generale era questo. Non so se tu come ti senti. Ah, io sono uscito dal cinema molto contento, soprattutto per come ha continuato un po' alcune cose lasciate in sospeso in Endgame, perché era un po' la stessa situazione che c'era con Ant-Man e Avengers Age of Ultron. cioè che la fase 2 in realtà è finita con Ant-Man. Ah, che però era dopo Age of Ultron. E qui anche con Spider-Man Far From Home siamo ancora in fase 3, non siamo in fase 4. Quindi è stato, secondo me, un buon film. Ah, per chi ci ascolta che non sa che cazzo sono le fasi, è gergo, diciamo, di produzione Marvel. È bello parlare con Cristiano perché a lui piacciono questi film. Dai, anche a me. Non è da solo. È rappresentato comunque il podcast. Quindi vabbè, cioè, sarebbe la fase 1, è la parte, diciamo, iniziale, quando sono iniziati i film, fino ad Avengers 1, poi c'è la fase 2, che era fino ad Avengers e già Ultron, e poi c'è la fase 3, che è questa qui, che sì, finita con Spider-Man. Poi non so perché, per qualche motivo, dopo Avengers e già Ultron ci hanno ficcato Ant-Man, con la fase 2, vabbè. E quindi in questa hanno ficcato... E in questa l'hanno finita con Far From Home, e è un po' meglio, perché mentre Ant-Man era un po' isolato da tutto il resto, qui, diciamo, fa molti riferimenti a quello che è successo in Endgame. Già all'inizio spiegano alcune cose che già la gente critica, che era uscita da Endgame, l'aveva additati come plot hole, buchi di trama, errori, così invece qui vengono sistemati. C'è anche una scena che viene spiegata, un altro plot hole che la gente aveva individuato nel trailer di Spider-Man. Ah. Non so se la posso dire quella scena con... Vabbè, dopo ne parliamo. Intanto, vabbè, diciamo che hanno fatto una specie di spieghino su alcune cose che alcune persone non avevano capito, oppure su quello che avevano dubbi. Ma perché devono fargli spieghini? Tanto è così chiaro, perché? È così lineare. La sceneggiatura non ha mai avuto buchi in questi film. Perché, sa, Zack Snyder insegna che come in Batman vs Superman... Beh, ma almeno lì il problema di Zack Snyder è che almeno uno dice il film è fatto coi piedi, e vabbè, è vero, e lui ammette il film è fatto coi piedi. Qua no, qua ai fan piace, cioè dicono vabbè, che la sceneggiatura regge. Sì, sì, ma regge, se regge. Sei fan... Mm-hmm. Vabbè. E diciamo che il metodo Snyder è far uscire poi l'edizione estesa di 4 ore del film, e invece il metodo Marvel è... Capolavoro. Esatto. Fare spieghini. Esatto, Salla, vedi che, cioè, se dovessi essere critico di Snyder, fa come Netflix che cambia i doppiaggi, cazzo, poi non va bene. Che toglie... Vabbè, lasciamo perdere questo discorso, non lo ricacciamo, che sennò qua... Quindi niente, cioè, diciamo che giudizio così... come dire... generale è così. Mi è piaciuto molto il villain, la trama, soprattutto con i personaggi, insomma, quelli, gli amici di Peter, un sacco di belli scambi, belle battute, non lo so, cioè, non è un capolavoro, ma non è neanche tra i film Marvel peggiori che ce ne sono, quindi molto, molto godibile. Del villain c'è da dire che già chi conosceva un minimo dei fumetti già sapeva chi era il villain, però nonostante ciò, il colpo di scena, tra virgolette, in cui si scopre che il villain è cattivo. Ma lo puoi dire, perché noi in un episodio passato, vabbè, diciamo che qui inizia la fase, la parte più di spoiler, perché se qualcuno non vuole sapere proprio nulla del film, se non che è dopo Endgame, che quelli lo sanno tutti, cioè chiunque sa che è legato a Endgame, può smettere di ascoltare. In pratica noi avevamo fatto una scommessa su... Venite ad ascoltare, per favore. Su Spider-Man avevamo detto a che ora, cioè a che minuto Spider-Man si sarebbe accorto che Mysterio lo stava tradendo. Perché tu, cioè chiunque avesse letto un fumetto di Spider-Man sa che Mysterio è un cattivo. Anche solo scrollare il trailer nei commenti. Sì. Ma anche uno che si chiama Mysterio. Cioè... è come dire, non so, vabbè, con si fa politica, però è come... Non lo so, puoi dire quello che vuoi, tanto abbiamo detto di come dire Casa Pound, non puoi dire questo, secondo me è una cosa buona, è Mysterio, è vero. No, cioè dai, è abbastanza, poi è uno dei cattivi più famosi, più, cioè secondo me sì. Più belli anche nei momenti, quindi diciamo, come dire, anche perché, scusa ti interrompo, no, vai. Vabbè, dai tempi di Spider-Man 3 di Raimi hanno fatto un po' troppi cattivi insieme, quindi magari alcuni li hanno un po' rovinati. Amazing Spider-Man lasciamo perdere. Invece c'è da dire che nei due Spider-Man della Marvel almeno i villain sono fatti bene, secondo nel me. Nel primo è molto bello. C'è quella scena in auto stupenda quando stanno... Sì. È bello anche lui caratterizzato nel primo come personaggio. Sì. In questo è un po' peggio, secondo me, come caratterizzazione. C'è tipo una scena di 5 minuti dove spiega, fa lo spiegone. Sì. E poi il bello è che l'intervallo è subito dopo, quindi proprio ti pesa un casino sta scena di lui che spiega tutto. Però è utile, insomma. Lui comunque è un attore navigato, come se la cava qua. È bravo. No, no, lui, Jake Gyllenhaal ha fatto tipo 200 milioni di film. Tra l'altro può essere tipo danese lui, no? Di origine. Svedese. Non lo so. Svedese. Svedese. Non anche. Confondiamo cioè, i danesi. No, ma non è, è americano, però credo che abbia origini svedesi. Credo. Sì, cioè... Diciamo che quello spiegone potevano evitarselo, però soprattutto perché poi viene spiegato visualmente dopo come ha fatto, però il personaggio, non so, a te come è sembrato? A me è piaciuto. Il bello è che nella prima parte tutte le cose strane che dice, un po' cringe, diciamo, un po' così... Vengono, è tutta parte del suo personaggio, quindi sì. All'inizio se uno pensa è un cattivo stereotipato, in realtà lui stava recitando nel recitare, quindi sì. Anche gli aspetti negativi, diciamo, nella prima parte hanno un senso. C'è anche questo Salla, te lo spoilerò senza aver mai tanto che è un cazzo. C'è anche, io pensavo che all'inizio di questo film Nick Fury fosse diventato vecchio, cioè che il punto di questo film fosse che Nick Fury aveva perso il contatto con la realtà, perché è stato 5 anni senza esserci una realtà, fondamentalmente. Quindi, invece, sì, alla fine non per era me, Nick Fury. Per me, tra l'altro, stai parlando straniero perché non ho visto neanche Endgame, quindi frega proprio il cazzo. Ah, ok, ti ho sparato appena anche Endgame. Non me ne frega però, niente. Cioè, frega niente. Comunque, dopo Endgame, Nick Fury essenzialmente... Pensavo che fosse un po', capito, fuori di allenamento. Invece qui si scopre che non è Nick Fury. Cioè, nel senso... Diciamo che mi hanno un po'... Non fregato, però mi hanno un po' deluso, perché ho detto, ah, va bene che l'hanno spiegato, però speravo che fosse un'evoluzione del personaggio, invece è sempre quello che non si fa fregare, capito? Non lo so, te come ti è sembrato il colpo di scena finale? A me ha sorpreso perché tutto il film pensavo... c'è qualcosa che non va qua con Nick Fury. Ah, a te non piaceva quindi la cosa? No, nel senso, boh, era troppo strano rispetto al solito. No, in realtà no, alcune cose non mi sono piaciute del suo modo di fare durante il film. Ah, ok. Poi invece quando alla fine si è scoperto... Che era Talos. Ok. Vabbè, allora, cioè, alla fine diciamo che i colpi di scena, non dico... prevedibili, però nel senso quelli che c'entrano di più con la trama di questo film sono questi, cioè che Mysterio era sì. Cattivo, tra virgolette, di cui non hai detto il minutaggio. Allora, ok, la scommessa della scorsa volta, che tra l'altro è tipo 20 episodi fa, no, era, mi sa che è uscita 2 settimane, quando cazzo l'abbiamo fatto? Non mi ricordo se è uscita prima o dopo, comunque sia, era Sex and the Oddis, mi sembra. Ah, minchia, ok. Con la sua sessualità. Luca Oddis ospite aveva scommesso al 104esimo minuto. Io avevo scommesso al 78esimo e Sala al 72esimo. Io ho ricontrollato e al minuto 71 esattamente Peter Parker si accorge che il Mysterio lo stava fregando. Vede un proiettore e... Ma è che le sceneggiature Marvel sono... Che hai detto, Sala? Le sceneggiature Marvel seguono un copione già scritto, cioè hanno un minutaggio già fatto. È sempre così. Ok, mi dispiace che tu sia così esperto, nonostante ti facciano schifo. Sono tutti uguali. Duca si aspettava, dicevi, si aspettava il combattimento finale. Sì, di un quarto d'ora, stile, non lo so. Wonder Woman. Arrivo a Wonder Woman. Che schifo. Una cosa che, di questo film è che MJ, che qua non è Mary Jane, No, è vero, non è Mary Jane. in realtà si chiama tipo Michelle o qualcosa, Michelle la chiamano Jones. MJ, però vabbè, MJ, in questo film fa qualcosa, mentre nei tre Spider-Man di Raimi, Beh, Mary gnocca Jane però. non fa niente. Però è gnocca, è Nei vero. tre Spider-Man di Abbasso Raimi il è gnocca. femminismo. Vabbè, ma Sì, però... anche Zendaya non è male, però abbasso il femminismo, viva le tette. Alla fine si è un po' spostato il target, no, nel 2000 pensavamo solo al modello di donna, oggi invece c'è il tipo di ragazza edgy, Sì, Edge d'archettona. Lord, Memelord. Che però, vedi, hanno fatto una cosa bella in questo film, l'ho quasi scordato. Hanno ricacciato una parola italiana che non si sente mai in nessun film. La parola boh, io non l'ho mai Vero. sentita in un film. E Ma anche la perché gli ricacciano. stranieri non sanno che cosa sia. Eh no, però in questo film lo sanno. Cioè la tizia dice, la mia parola italiana preferita è boh, e dice boh, non Ah dice non lo sì? so. Sì, Ma però l'ho boh è un avuto po' appena. come il francese che di solito all'estero non sanno che cazzo sia. Che schifo i francesi. Comunque, esatto, Non dicevo ti prima. preoccupare, ci sarà tutto l'episodio dopo per parlare male dei francesi. Per parlare di francesi, dopo un altro episodio molto carino. La cosa, diciamo, lo spoiler che non mi aspettavo e che sono stato molto contento di non essermi fatto, diciamo, che di non aver pensato a questa cosa, è. Cioè, cosa sto per dire? Cosa sto per dire io? Un certo giornalista? Esatto, cioè, La puoi dire, ma Salla. mi interessa. Hai presente la scena di Rogue One? Tu hai visto Rogue Purtroppo. One? Però hai presente la scena alla fine quando appare Darth Vader? Sì, che è l'unica bella del film. Esatto, è l'unica bella e te lo fa venire duro. Mi dissocio. In questa scena alla fine del film c'è J. Jonah Jameson. Ed è J. Jonah, cioè è lui, è l'attore di Sam Raimi, cioè J.K. il. Simmons. J.K. Simmons Jeez. è quello della prima. E E cosa fa, scusa? io. J. Jonah Jameson! Ah, fa Il giornalista lui interpreta se adesso stesso. non è più fatto di Spider-Man. Quello lì, esatto. Ti giuro, cioè, io spero di comunicarti questa mia gioia. Cioè, quando l'ho visto per la prima volta in tipo, non so, tutti i film Marvel che ho visto, non mi sono trattenuto dall'urlare di gioia. Cioè. Non ho mai partecipato tipo agli applausi, agli urli e nessun film Marvel, nonostante fossero tutti sguaiati alla prima proiezione, ma quando l'ho visto c'era gioia, era troppa, sono stato troppo felice. Poi ancora più pazzoide, pelato, tutto incazzato, che bello. Poi diciamo, si può fare lo spoiler, cioè quello che succede in quella scena. Sì. Ma si andrà a sala che ne frega. In pratica lui rivela l'identità di Spider-Man al mondo. Cioè, diciamo che lo rivela con un video fatto, un videomontaggio, Sì, fatto da quelli di fatto Mysterio. dai Ma c'è Peter compagni. Parker. Sì, lui Sì. dice, Spider-Man è Peter Parker. Ah, E lui è Iron quindi... Man. E quindi faranno uno No, Spider-Man 3? Che bella merda. comunque è un parallelo. Vabbè, in tutto il film c'è il paragone tra lui Esatto, volevo e farti parlare di Tony. questo, volevo chiederti che ne hai pensato. Ma secondo me ci sta perché così come in Iron Man 1 hanno. Ah, tu dici il paragone tra i due Eh sì, o ma la. scusami, ti ho interrotto, stavi dicendo di sta cosa, prima No, sì, spiega. vabbè, è un buon parallelo col primo Iron Man dove lui alla fine si rivela al mondo e qui invece Te lo rivelano loro. c'è Peter che in teoria è il successore di Tony Stark. Ah, lui ovviamente non può essere subito il successore di Tony Stark perché No, no. non ha le stesse competenze, però... Cioè, non... fanno vedere comunque nel film, ci sono delle scene tipo carine all'inizio, c'è questo parallelo tra la scena iniziale di Iron Man 1 nel deserto Sì. e la scena iniziale di questo, c'è il parallelo con lui che comincia tipo a costruire delle cose con gli ologrammi e c'è Sì. Happy che lo guarda. C'è delle scene dove magari non è tanto proprio una riproduzione esatta, ma è una versione alla Spider-Man di quello che ha fatto. Cioè tipo. Anche se non c'entrava un cazzo visivamente, la scena dove lui prende cose e le usa sì, improvvisando, sì, tipo quella scena con il drone che spara in alto e lui prende lo scudo, il... che fa tipo un misto di Iron Man e Thor. Cioè, sono dei paralleli fighi. Sì, alla fine anticipano un po' il Peter dei fumetti che poi fonderà una sua... nei fumetti tipo fondano una sua azienda di scienziati. Ah, sì? Sì, sì. Ah. E quindi... Ma il fatto che non sia a New York quanto pesa sul film? Nel senso che Spider-Man è iconizzato come un supereroe di New York. Ma alla fine, quando è che torna a New York? Negli ultimi 40 minuti? Oddio, 40 minuti? No, gli ultimi 10 minuti, credo. 15. Ah, no, è vero, lì stavano a Londra. Londra. Beh, se no se dici questo... No, aspetta. No, vabbè, comunque c'è, in effetti già c'è una scena che hanno tagliato dai trailer, che era quella di lui aiuta i poliziotti. Che va a prendere il passaporto, mi sa pure. Sì. Cioè, però, Spider-Man è un eroe di New York, di solito. Sì, però c'è anche questa cosa, infatti, che lui viene chiamato da Nick Fury, ma e lui gli dice, ma io sono solo uno Spider-Man di quartiere. Ah, ok. Nick Fury in inglese dice proprio bitch please, sei stato nello spazio. In italiano lo dice, che delusione. E cosa dice in italiano? Dice... di sicuro non dice puttana grazie, però... puttana per favore. Se Cannarsi che fa la traduzione potrebbe essere cagna per favore. Che ne so del doppiaggio? Ma il doppiaggio, vabbè, quello di Nick Fury ormai è iconico, alla fine ci sta. Quella che è stata per me un po' una delusione. Anche no, vabbè, alla fine in italiano era guardabile. Forse magari in inglese sicuramente sarà meglio Jake Gyllenhaal, il cattivo. Per il resto, non lo so. Forse anche i professori in inglese rendono di più. I professori che accompagnano i ragazzi in gita, che sono, diciamo, l'espediente comico di questo film, secondo me funziona perché non è mai troppo esagerato. Mysterio è fatto da Stefano Crescentini, che comunque non è sicuramente un novizio di doppiaggio. No, però Jack Gyllenhaal, anche perché l'ha visto magari in Nightcrawler, certe volte c'ha quei modi di parlare un po' da psicopatico, e quindi magari in inglese rendono di più. E boh, per il resto, cioè, non so, personalmente a me in questo l'umorismo, diciamo che in alcuni momenti forse mi è piaciuto più di Homecoming. Ci sono delle botte di Homecoming ancora stupende, soprattutto di Ned, però qui tipo il ruolo di Ned sono io. Non so. Vabbè, nel primo c'era quello del professore che diceva non voglio perdere uno studente in gita di nuovo. Sì, cioè insomma, anche qui sono dei momenti insomma carini, però vabbè. Magari con Ned un po' forzata la sua relazione. No, vabbè, perché dai, lui è Icio. È troppo Icio, Ned. Io mi aspettavo che lui diventasse, alla fine, tornasse ad essere l'uomo sulla sedia, cioè magari usando gli occhiali così. Ah, ok, invece hanno un po' ridotto, dici. Sì. Sì, vabbè, non so, a me non viene in mente molto altro. Vabbè, c'è la scena forse migliore del film, che è quella delle illusioni di Mysterio. Ah, sì, cazzo, grande, me la sto ascoltando. Che è un po' la punta di diamante di questo film, secondo me. È vero. Quando proprio prima Spider-Man scopre che Mysterio è il cattivo e poi lo affronta, questo usa delle illusioni che sono sia girate bene, perché fanno un attimo mal di testa anche chi lo guarda. Sì, è un po' come la parte più bella di Doctor Strange, quella scena. Sì. E sono sia abbastanza... Sì, ecco, quelle che leggevo belli. Dicevano che il film faceva cagare, e quella scena, anche se magari avrebbe potuto valere il biglietto, non era comunque forse sufficiente. Vabbè, alla fine una scena non vale mai il biglietto. Beh, dipende. Forse il difetto è che dopo di quella scena i poteri di Mysterio non si vedono più efficaci in quel modo, quindi... Però è anche vero che dopo quella scena lui non ha più un bersaglio unico da fregare, insomma. Quindi, non lo so, cioè, capisco il criticismo di tante persone che dicono questo Mysterio... si vedeva da lontano un miglio, ma Spider-Man gli hanno ridotto il suo superpotere a una battuta sulla pubertà. Cioè, ma sono tante lamentele. Quello che leggevo era più che altro il fatto che comunque, anche se può essere un buon film, rispetto al primo è comunque un film peggiore, come un normale sequel, quindi niente di che. Poi questo è quello che ho letto. Secondo me è anche stato capace di usare certi dettagli per non fare troppi spiegoni e per rendere la trama un po' più... per giustificare alcune cose. Che ne so, lui cioè, avrebbe il vestito quello che usa in Infinity War, che sarebbe OP, cioè è troppo forte. E invece in questo caso, andando in gita, rimane senza quella... Sì. Quel costume che altrimenti avrebbe diciamo distrutto tutto, avrebbe distrutto, sì, anche perché penso che con tutte le cose tecnologiche avrebbe anche visto i droni invisibili. Sì, infatti è bello come, diciamo, rispetto al primo ci sia un sacco più di roba da nascondere, sì, al pubblico, ma anche dandogli degli indizi. Cioè, rivedendo questo film, io sono curioso di vederlo perché ci sono tante cose, tanti dettagli che, diciamo, giustificano, che spiegano, che comunque si possono notare riguardo, sì, molte cose dopo. Poi, che ne so, cioè, quando lui c'ha degli occhiali, c'ha gli occhiali di Iron Man, eredita in pratica, che hanno all'interno un software di realtà aumentata, e che ne so, quando stanno sull'autobus lui vede i messaggi di tutti e si vede Flash Thompson, che ai messaggi scrive ai genitori perché non mi scrivete mai, oppure poi quando ritorna all'aeroporto i genitori non ci sono. Parte, e qualcuno dice che stiano si lentamente, sì, preparando come villain, qualcuno addirittura dice che mischieranno Flash e Harry Osborn. Harry Osborn chi è? Harry Osborn è... cioè non c'è in questo film. Ah, ok, no, infatti. Però nel senso, col fatto che lui è un tizio ricco, genitori che non sono mai... Faranno lui il Goblin. Se lo faranno il Goblin, comunque può essere che nei prossimi film legherà molto con Peter. Ok. Poi nei prossimi film è una parola difficile perché la Sony ancora non si sa cosa vuole fare. No, dicevano che se... girando, dai, ho capito. Ah, cioè, cosa? No, non lo stanno girando, è in produzione. Ok, perché comunque prima avevano detto che se non, questo film non superava il miliardo, la Sony si riprendeva. Ma che cazzo dici? Però il contratto di Tom Holland è comunque per 3 film, quindi o la Sony si riprende anche Tom Holland oppure hanno un problema. Cazzo. Oppure li cambiano nome alla Marvel. Non lo so, lo chiamano la scimmia volante, così. Esatto, la scimmia notturna. La scimmia notturna. Noi, allora, non so, a me, cavolo, me l'ho dimenticato la scena. Comunque a me non viene in mente molto altro riguardo a sto film. Più o meno ho detto tutto. Appunto, c'è un film, secondo me, migliore del primo, un po' più complesso, orribile, ma non un capolavoro. Cioè, come film Marvel lo metterei forse in top 5, non sono sicurissimo. Però come film in generale, certo, come anche tutti gli altri, non è più un capolavoro in generale. Se no in quest'anno è comunque, cioè rispetto tra quelli di quest'anno è stato meglio rispetto a Capitan Marvel. Sì, sì, quello sì. Come, un po' come svolgimento. Comunque il miliardo lo fa easy. Sì. Sì. E adesso è 850 milioni. Ma voglio. E allora lo vado pure a rivedere in inglese. A parte non era oggi, non lo vado a rivedere in inglese. E noi alla fine di ogni puntata di solito facciamo una rubrica, però possiamo anche non farla. Una rubrica in che senso? Cioè nel senso, o facciamo una scommessa, oppure diciamo tipo. Possiamo anche non farla, ma intanto vi diamo appuntamento la prossima settimana in cui ci sarà un episodio che gireremo ora e che io sono molto curioso di girare. Comunque l'ospite che deve partecipare non è ancora arrivata, quindi Ah sì, potremmo anche. Sì. abbiamo preso un'esperta apposta per questo film. Esatto. Però no, vabbè, dai, non facciamo la rubrica, lasciamola qua e sì, dai. Vabbè, ci sta. Beh, comunque, Spider-Man, cioè, al momento mi pare che il botteghino sia un po' una merda. Spider-Man comunque sta andando benissimo, quindi non credo che sarà un problema. Come al solito, fare un sequel e un re-sequel e un de-sequel. Ma Poi no. chissà se lo scrive la prima, magari in Doctor Strange 2, non lo Cazzo, è Faranno un Doctor vero. Strange 2? Che schifo. Perché penso anche prima di Spider-Man, non lo so. Ma il prossimo cos'è dopo sta merda? Come Non si sa. non si sa? No, no, dovrebbe essere Black Widow. Cosa? Cioè, il prossimo film dell'anno prossimo sarà Black, il primo film dell'anno prossimo Ma che sarà. dici, veramente? Eh sì. Ma se. Già l'hanno girato, cioè già stavano girando. Sì, Black davvero? Widow. No, io non Fase ne so assolutamente 4, niente. nuove date. Che poi 2020, tanto hai ragione. cambierà, però. Cioè non i primi, ma quelli dopo. Ma. Solo due E poi film hanno nel detto 2020. che prima di rivelare la timeline. Mi sa che aspettavano tipo l'uscita di un video di Avengers Endgame prima di rivelare Ah, in magari. futuro. Sì, quindi forse o al San Diego Comic Con diranno qualcosa in più. Può essere. Che tra l'altro è domani, quindi siamo proprio precisi. Domani rispetto a noi, non rispetto a voi che state ascoltando quando vi pare. No, per voi è stato giovedì, ieri l'altro. Cavolo, Black Widow. Sì, ma anche Black Panther 2 tipo Sì, dovrebbe penso guardare. che Black Panther 2 e Doctor Strange 2 erano quelli sicuri in. Che sarebbero arrivati sicuramente. Poi Guardiani della Galassia 3 un po' più là. E E poi Thor oddio, che 4. schifo. Oddio, che schifo. Porca troia. Sarà un decennio ricco di emozioni. Allora, non vedi l'ora. Io sono non vedo l'ora per Ma Thor che 4. schifo, Troppo porca lunga. vacca. Thor 4, Mortor. Vabbè, c'è anche tutta la questione dei Fantastici 4, Oddio. dell'X-Men. Beh, Magari quello fanno magari Thor potrebbe anche essere qualcosa di nuovo. quello sì, no, quello sono davvero emozionato. Cioè, sono davvero in attesa di cosa penseranno. Insomma. E Cioè, i Fantastici poi 4 alla sono una fine serie. sono un po' il. Dovrebbero, sarebbero dovuti essere il trampolino di partenza del Marvel. Ma invece è stato Iron Man. Già. Non lo so, vedremo perché. Sono curioso di. Cioè, mi è dispiaciuto un po' che in questo film abbiano un po' deriso. Mi è sembrato. Sai la scena di Sherlock quando prendono per il culo quelli che fanno le teorie su come è Sì. sopravvissuto? Mi è sembrato quello. Cioè, quando hanno detto, ah, perché le persone crederanno a tutto, se gli dici che esiste il multiverso ci credono. E grazie al cazzo! Cioè. Come facevo a non crederci? Cioè, ci speravo che fosse quella la spiegazione per i mutanti, però. Vedranno un'altra, fanculo. Vedremo. Beh, nel frattempo guardatevi Legion. Bellissimo Legend. Sto guardando la. Devo guardarmi la quarta. E io ho visto le prime due. Mamma mia, sì, guarda, vi assolutamente. Cioè. Legion. Nell'attesa, se volete dei mutanti, guardate. Va bene, niente. Allora, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ringraziamo Cristiano, vabbè, anche Jacopo in realtà. Io, grazie a Dio, ho fatto poco. E basta, niente. Seguiteci, grazie di seguirci, grazie di aver scaricato così tanti episodi. E alla prossima settimana. Ciao ciao. Ciao.